أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم هنا. Buonasera, siete in diretta su Radio Asilo con una nuova puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Come al solito al microfono ci sono io, Michele, e c'è Davide. Davide, ci senti? Sì, ci sono. Buonasera a tutte e tutte, ben ritrovati dopo un po' di pausa, dopo la pausa estiva che però ho visto, durante la quale sono successe un po' di cose, diciamo. Beh sì, Davide, sicuramente. Diciamo che io inizierei come al solito con un sommario di questa puntata che ci apprestiamo ad affrontare, e chiaramente credo sia doveroso iniziare con quella che è stata l'evasione dei prigionieri dal carcere di massima sicurezza di Gilboa. Purtroppo sono stati riarrestati, finora soltanto due sono ancora in libertà, e tra l'altro uno di questi si trova in coma in seguito alle torture subite dall'occupante sionista. E chiaramente in seguito a questi fatti ci sono state anche delle tensioni, si respira vento di intifada in Palestina, e ovviamente una conseguenza di tutto questo sono stati anche ulteriori bombardamenti che ci sono stati nella striscia di Gaza. Dopodiché, Davide, parleremo anche dell'anniversario poco felice, diciamo, degli accordi di Oslo, che ricade proprio ieri, lunedì 13 settembre. E come ulteriore evoluzione della politica sionista, anche l'incontro che c'è stato tra il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. E poi sicuramente parleremo anche di un altro triste anniversario, quello del massacro di Sabra e Shatila. Bene Davide, io inizierei proprio da questa fuga che c'è stata di questi prigionieri, che in stile cinematografico, come scriveva Michele Giorgio, sono evasi da questo carcere di massima sicurezza di Gilboa nella notte di domenica scorsa. E in pratica questi prigionieri per parecchio tempo hanno scavato questo tunnel sotterraneo all'interno della loro cella, che appunto gli ha permesso di trovare la libertà. A te, Davide. Sì, come diceva il buon Michele Giorgio, infatti non sono evasi calandosi giù con le lenzuola annodate, ma la fuga comunque dal carcere israeliano di massima sicurezza di Gilboa è stata sicuramente un atto eclatante da fare scuola, e a livello anche cinematografico da poterci fare un film, in quanto i sei evasi sono appunto evasi scavando un tunnel sottolano dalla loro cella, la numero 5 della sezione 2, fino all'esterno della prigione, semplicemente utilizzando un cucchiaio. E infatti il cucchiaio è diventato il simbolo delle proteste, delle grandi manifestazioni di solidarietà che si sono sviluppate, hanno celebrato l'evasione dalla Cisgiordania alla striscia di Gaza. E vari personaggi importanti hanno celebrato questa evasione come uno sbacco all'occupante israeliano, tra cui altri dirigenti di partito dello stesso partito Fatah, ma dalla presidenza dell'ANP e dal governo non è arrivato invece alcun commento. Questa non è la prima evasione di palestinesi da un carcere israeliano, ma diciamo che è la più clamorosa di questi ultimi anni, soprattutto per un paese che fa della sicurezza e della forza militare il suo vanto, e che vanta appunto tecnologie di sorveglianza e di controllo tra le più avanzate al mondo, ponendosi come un leader in tale mercato. E la fuga quindi da questo carcere ha rappresentato un duro colpo d'immagine per lo Stato sionista, e ad accrescere anche la rabbia e l'imbarazzo è stato anche il fatto che tra i sei evasi, di cui i cinque appartenenti alla Jihad Islamica, uno, il sesto, è Zakaria Zubeidi, che è l'ex comandante delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, del braccio armato di Fatah, una delle figure di spicco più note a Jenin, e considerato uno dei più acerrimi terroristi da parte di Israele, ed è stato uno dei leader della seconda intifada, ricordiamolo, dal 2000 al 2005, un personaggio da una storia politica particolare, e che infatti è essenziale sottolineare, perché Zakaria, questo ragazzo di 45 anni, all'inizio della seconda intifada arrivò sulla bocca di tutti, è stato definito la primula rossa, e Israele lo accusa di aver partecipato a un attacco armato palestinese in cui furono uccisi 6 attivisti del Partito Libero. Per i palestinesi invece lui, appunto, la primula rossa è quello che è sfuggito più volte alla cattura, agli omicidi mirati. Purtroppo questa volta non ce l'ha fatta a sfuggire, e fece parlare di sé fra il 2002 e il 2004 per l'alerazione che latitanza ebbe Kotali Fahima, una giovane ebrea israeliana di destra che poi convertita al pacifismo e alla sinistra, che si innamorò di lui durante una visita appunto nel campo profughi di Jenin. Fahima, che si proclamava uno scudo umano all'epoca, fu condannata a 3 anni di carcere per aver aiutato a decifrare, per contro delle brigate dei martiri di Al-Aqsa, una fotografia aerea scattata dalle forze armate israeliane e perduta da un soldato, per la quale erano assegnate le abitazioni di alcuni palestinesi ricercati, e quindi permise in questo modo a questi ultimi di sfuggire all'arresto. L'ho fatto per che quelle persone venissero uccise, ci ricorda il buon Michele Giorgio, vista la politica di Israele, che era quella di eliminare fisicamente gli attivisti palestinesi. Fahima non si è mai pentito, Zubeidi dopo il 2005 ebbe anche una stagione della sua vita non armata, in quanto ci fu una sorta di amnistia nei confronti di alcuni dei portavoci dei gruppi armati, e gli rinunciò al MIT approfittando appunto di questo accordo raggiunto da Abu Mazen con le autorità israeliane per i combattenti dell'intifada, e quindi decise di dedicarsi al teatro. Fondò con Giuliano Omar e altri il Nuovo Teatro della Libertà a Jenin, che è erede di in certa misura del teatro di Arna, che frequentava anche lui da bambino. Ci sono anche dei film riguardo al teatro di Arna e alla storia del campo profughi di Jenin. I giornalisti lo incontravano e intervistavano con molta facilità nelle strade del campo profughi, ed era che era stato anche poi completamente distrutto durante la seconda intifada. Ma i forti dissapori poi con Farah e l'ANP l'hanno portato ancora sulla strada della militanza armata, e infatti qualche tempo fa è stato arrestato da parte delle autorità israeliane. Zakaria quindi è uno delle icone del popolo palestinese, e proprio il suo arresto ha rappresentato un forte smacco per Israele, cioè la sua evasione. Purtroppo Zakaria, insieme, come tu ricordavi in precedenza, è stato purtroppo riarrestato venerdì con grande delusione proveniente da tutta l'arco palestinese, in quanto questa delusione poi si è tramutata appunto in rabbia. Tutti noi abbiamo visto le foto di Zakaria dopo l'arresto con il volto tumefatto e segni inequivocabili di torture, a cui si è risposto che aveva cercato di resistere all'arresto secondo le autorità. Ovviamente le strade palestinesi, così come durante tutta la settimana, si sono riempite di attivisti a sostegno di Zakaria, in particolare a Jenin, anche perché proprio ieri sera, a causa delle violenze subite, Zakaria è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni di vita sono precarie, e sono evidenti ovviamente già in quelle foto i segni di percosse, e è proprio di questi rischi di violenza e di torture nei confronti dei 6 fuggitivi aveva parlato anche già, avevano già parlato alcune associazioni umanitarie come Halak, che ha avviato una campagna internazionale dal titolo dell'hashtag Demand for Protection, per chiedere a Nils Melzer, il consulente delle Nazioni Unite in merito ai casi di tortura, di vigilare per impedire appunto alle autorità sioniste di torturare i fuggitivi palestinesi che sono stati arrestati. Purtroppo questo appello è caduto nel vuoto, proprio perché Zakaria in questo momento si trova ricoverato in condizioni precarie. Yeah.

Inoltre, nel corso delle scorse settimane, i prigionieri della Jihad Islamica, a cui appartengono 5 dei 6 evasi, si sono scontrati ripetutamente con le autorità dell'IPS in diverse carceri, dando fuoco alle celle delle prigioni. Tuttavia, nonostante sia stata applicata una brutale repressione dei disordini da parte delle famigerate unità di Masada dell'IPS e nonostante l'invio di alcuni prigionieri in isolamento, il trasferimento forzato di molti altri, la negazione delle visite, le dure percosse subite, centinaia di altri prigionieri di tutto lo spettro politico palestinese si stanno preparando a iniziare uno sciopero della fame di massa dalla fine della prossima settimana, o meglio da venerdì, appunto a sostegno dei fuggitivi che sono stati riarrestati e degli altri compagni di prigionia, e in solidarietà anche ai prigionieri evasi. Infatti, venerdì ci sarà questo sciopero di 380 prigionieri palestinesi delle varie forze politiche che entreranno in sciopero della fame. Forse tu, Michele, puoi leggerci proprio il comunicato che è stato emanato Sì, dai Davide. prigionieri palestinesi in Sì. merito. Sì, Davide, infatti come puntualmente ci ricordavi, proprio ieri l'autorità per gli affari dei prigionieri e degli ex detenuti ha deciso di intensificare le sue azioni di protesta contro l'amministrazione penitenziaria israeliana e proprio per questo motivo, appunto, come ci dicevi, venerdì prossimo partirà questo sciopero di 1300, in 1300 prigionieri, scusatemi. E la commissione ha affermato in un comunicato, di cui la copia tra l'altro è pervenuta al portale che stiamo riportando, che è Adfa News, che è una testata palestinese, che praticamente alla luce del frenetico attacco condotto dai più alti livelli politici in Israele e della gestione delle sue carceri contro i prigionieri in tutti i centri di detenzione e il suo ritmo e aumento negli ultimi giorni dopo la liberazione di 6 prigionieri stessi dalla prigione di Gilboa e il loro l'arresto di questi quattro. Scusate, ma la traduzione in italiano, insomma, riporta dei refusi. In seguito a questi abusi, il movimento dei prigionieri ha deciso di difendere il suo diritto e dignità alla vita e alla libertà, avviando uno sciopero della fame aperto sotto forma di lotti che inizierà venerdì prossimo con lo slogan. Con lo slogan La battaglia per la difesa. Ha spiegato che il primo lotto dello sciopero includerà 1380 prigionieri di diverse prigioni, come 400 prigionieri della prigione di Raimond, 300 prigionieri della prigione di Ofer, la famigerata, 200 prigionieri della prigione di Nafa, 200 prigionieri della prigione di Megiddo, 1000 prigionieri della prigione di Gilboa, 80 prigionieri del carcere di Eshel e 50 detenuti del carcere di Megiddo che inizieranno a colpire le sbarre proprio per invocare il loro diritto alla libertà, come ha affermato Adarim, che è il portavoce di questa organizzazione. Inoltre ha aggiunto che il movimento ha sviluppato un piano graduale per l'escalation durante il prossimo periodo, poiché ha deciso di sciogliere tutti gli organi organizzativi di tutte le fazioni in varie carceri e di inserire nuovi gruppi di prigionieri in questa battaglia il prossimo martedì 21 settembre 2021, e 100 prigionieri, tra cui i leader delle varie organizzazioni, sciopereranno. Il venerdì successivo inizierà lo sciopero, incluso dei membri del Comitato Centrale di Fatah, che sono Karim Younis e Marwan Barghouti. Quindi, secondo la dichiarazione, le richieste del movimento dei prigionieri attraverso questa battaglia saranno di fermare la politica di repressione, abusi e soprattutto torture e abusi arbitrari e soprattutto di attenuare le severe pene imposte a centinaia di prigionieri e il rilascio dei prigionieri isolati ai dipartimenti regolari. il ritorno alle condizioni di detenzione a quelle che erano prima del 5 settembre e di porre fine alla politica di detenzione amministrativa arbitraria e inoltre chiedono la sospensione della politica di rinnovo per i detenuti amministrativi e il ritorno delle visite dei familiari attraverso lo Shabak, l'attuazione delle visite da parte delle famiglie dei prigionieri di Gaza e l'installazione di un telefono pubblico e fisso permanente nelle carceri. E inoltre chiedono anche la restituzione dei materiali della mensa, come erano prima della legge Shalit, e l'introduzione di scorte di cibo, verdura, carne e frutta e il rientro dei vestiti attraverso le visite dei familiari. La Commissione ha invitato le organizzazioni internazionali per i diritti umani e legali a fermare la politica della vergogna, tacendo sui crimini che stanno avvenendo nelle carceri israeliane, e a fare pressione sul governo di occupazione estremista affinché rispetti l'umanità dei palestinesi detenuti, ritenendolo responsabile dei loro crimini contro migliaia di prigionieri che sono quotidianamente abusati dalle unità di oppressione e di abuso, così vengono definite in questo comunicato. Inoltre, Davide, nel mese di settembre, per l'esattezza il 6, quindi poco tempo fa, a Dahmer, che è una famosa organizzazione proprio per i diritti dei detenuti politici palestinesi, ha rilasciato le statistiche mensili proprio sui detenuti. E secondo a Dahmer ci sono attualmente al 6 di settembre 4.650 prigionieri politici palestinesi, di cui 520 sono in detenzione amministrativa, 200 sono bambini, ci sono 40 donne e ci sono 400 prigionieri di Gerusalemme, 240 di Gaza, ci sono ancora 11 membri del Consiglio legislativo palestinese. Insomma, come sempre, queste statistiche sono estremamente emblematiche di quelle che è la situazione. Siamo tornati più arraggiati da ieri. Più passo tempo, più ci facciamo scura. Siamo tornati e ci facciamo venire. Parliamo e facciamo non tenere problema. Intifada, intifada, paura, shabia. Al mukawama, mishkada, mishkada. Palestina io li insegno il suo sistema, è pazzia, resistenza, popolare, tutta quanta mietta via. Al-Mukawama, al-Mukawama, vada dentro a bite of the butter, starantula. Al-Mukawama, al-Mukawama, keep resisting your resistenza global. Al-Mukawama, al-Mukawama, vada dentro a bite of the butter, starantula. Al-Mukawama, al-Mukawama, keep resisting your resistenza global. Al-Mukawama, resistenza popolare. Che ieri, appunto il 13 settembre, ricade l'anniversario, un triste anniversario per la storia palestinese, pensiamo noi, ma pensano anche in tanti, lo pensava anche Edward Said, che è appunto quello del 13 settembre 1993, appunto la firma degli accordi di Oslo, quella che Edward Said definì la resa palestinese, la Versailles palestinese. E volevamo un po' ripercorrere il conto, quello che in cosa si è sostanziato Oslo, lo possiamo, chi ha avuto l'opportunità di andare in Palestina, ma anche da lontano vedendo le immagini può capire bene che a più di 30 anni da Oslo, a quasi 30 anni da Oslo, nulla è cambiato per il popolo palestinese, anzi le cose sono peggiorate decisamente in una maniera esacerbante, possiamo dire, sotto il profilo dei diritti, hanno visto diminuire sempre più il loro territorio, la loro terra, hanno visto annullare diritti fondamentali come quello a potersi muovere e hanno visto soprattutto la creazione di quella che è oggi l'autorità nazionale palestinese. Nel ripercorrere un po' la sostanza di Oslo, lo facciamo, non ce ne vogliono ammare, anzi lo facciamo con grande piacere, prendiamo un po' spunto anche da un post dei giovani palestinesi in Italia che vi invitiamo a seguire, che prendevano appunto posizione contro gli accordi di Oslo. Siccome lo condividiamo, ci scuseranno se noi prendiamo anche un po' spunto per quanto schema da poter, su cui poter riflettere con voi telescoltatrici e radioascoltatori. Gli accordi di Oslo infatti sono una serie di patti ad interim che riguardano lo status della Cisgiordania e della striscia di Gaza, concordati tra l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, e l'entità sionista. Nel 1993 Israele, dopo aver riconosciuto che la situazione in seguito alla prima intifada non era più sostenibile, volle contrastare le criticità e le pressioni internazionali crescenti, mostrandosi disponibile a negoziare. La firma degli accordi in realtà si è rivelata essere una cristallizzazione del potere coloniale, a discapito dell'indipendenza del popolo palestinese, esclusa a priori dai rappresentanti israeliani. A entrambi le parti venne concesso un periodo di 5 anni per portare a termine ciò che fu prescritto negli accordi, ma quella che sarebbe dovuta essere una circostanza temporanea si è trasformata in un meccanismo di perpetuazione del dominio sui territori occupati da parte di Israele. D'altro canto, come ci ricordano le compagne e i compagni palestinesi, Arafat, ricevendo numerose pressioni internazionali, soprattutto da parte degli Stati Uniti, prese la decisione di sostenere una soluzione diplomatica al fine di incrementare anche il proprio potere e la propria credibilità. Nel 1988, infatti, l'OLP dichiarò la propria indipendenza, riconobbe Israele, accettò la risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza dell'ONU che sanciva la fine dell'occupazione israeliana delle terre del 67 con la speranza di poter creare appunto uno Stato palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Nel frattempo Arafat aprì un canale di comunicazione segreto con l'entità sionista che culminò appunto nell'inizio degli accordi di Oslo del 93. Imboccare la via della soluzione a due Stati si rilevò una mossa fatale, possiamo dire si è rivelata una mossa fatale, che trasformò la Palestina appunto in uno stato satellite di Israele. Dei 10 accordi possiamo anche ricordare la lettera di mutuo riconoscimento tra il primo ministro israeliano Rabin, non prese nessun impegno ovviamente al di fuori del mutuo riconoscimento tra Israele e Palestina. Oslo 1 nell'ottobre del 94, che stabilisce un quadro di negoziazioni ambigue e di mutuo riconoscimento dei diritti politici di entrambe le parti, senza invocazioni di diritti nazionali, non si è mai fatto riferimento a questo termine. Ci sono stati poi gli accordi del Cairo nel 94, in cui l'autorità palestinese venne disposta e nominata come governo ad interim a Gerico e nella striscia di Gaza. Bisognerebbe ricordare anche i protocolli di Parigi e poi la cosiddetta Oslo 2, che stabilisce delle clausole molto ambigue, mentre le clausole sulla sicurezza esterna per Israele, ovviamente, risultano essere molto distagliate e complete, perché fu completamente ceduta alla sfera al potere israeliano. La sicurezza interna, infatti, era destinata ad una gestione condivisa tra l'autorità nazionale palestinese e l'entità sionista. L'autorità palestinese, in quel caso, finì per diventare un vero e proprio perno su cui Israele fece leva per far aumentare il proprio potere. E questo tutto ad innervodire l'Olpo. La situazione attuale sembra affermare che appunto gli israeliani, la strategia israeliana sia riuscita, anzi. Oslo 2 infatti aveva previsto la divisione della Cisgiordania e della striscia di Gaza in tre zone disgiunte, quindi l'area A, che era sotto controllo palestinese e comprendeva i centri abitati più importanti, l'area B, che invece era sotto il controllo, sotto l'amministrazione mista, e l'area C invece diretta esclusivamente da Israele, che ospita appunto oggi la maggior parte, poi ha ospitato la maggior parte delle colonie e delle basi militari con le quali si è preveduto ad accerchiare i centri abitati palestinesi, creando quelle che sono attualmente i veri e propri Batustan. Israele, come ci ricordano appunto i giovani palestinesi, contrariamente alla credenza popolare, non ha firmato gli accordi di Oslo a sostegno di una soluzione a due stati. Il primo ministro Rabin, che ha guidato il processo di Oslo fino al suo assassinio nel 95, ha espresso il suo sostegno per un'entità che è meno di uno Stato, come diceva lui stesso, questo è un virgolettato, che è meno di uno Stato e che gestirà autonomamente la vita dei palestinesi sotto la sua autorità. L'obiettivo era quello di subappaltare a qualcuno appunto la sicurezza interna e in questo modo garantirsi la sicurezza esterna e creare tutto questo un apparato di servi che è appunto quello dell'autorità nazionale palestinese. Possiamo dire che, come ha sostenuto Mustafa Barghouti, segretario generale dell'Unità Nazionale Palestinese, Oslo è stata la più grande idea che Israele abbia mai avuto, perché gli ha permesso di continuare l'occupazione senza pagare alcun prezzo. Quindi possiamo dire che la leadership dell'OLP ha negoziato gli accordi per servire i propri interessi politici e non certo i diritti dei palestinesi. Infatti il fondamento stesso degli accordi di Oslo era uno squilibrio di potere intrinseco, tutto a favore dell'occupante, che è stato poi codificato attraverso questi accordi, e ciò rese effettivamente l'ANP l'esecutore di fatto dell'occupazione. È quello che possiamo vedere sotto ai nostri occhi, è quello che poi si è tramutato nell'uccisione di Nizar Banat, di cui vi abbiamo parlato ampiamente lo scorso, che è avvenuto lo scorso 24 giugno. Vi abbiamo parlato di questa uccisione ampiamente, delle proteste che sono scaturite contro l'autorità nazionale in tutta la Cisgiordania, anche nella striscia di Gaza. Proprio in tal proposito possiamo dare anche quest'altra notizia: è stato rinviato al 21 giugno prossimo il processo ai 14 agenti dell'intelligence dell'ANP accusati di aver pestato a morte l'attivista Nizar Banat. Non si è presentato l'avvocato di uno degli imputati, e per la famiglia Banat, ovviamente molti palestinesi, il processo è una farsa, perché vede sul banco degli imputati solo degli agenti e non anche i vertici dell'intelligence e dell'ANP che ordinarono di arrestare e punire Banat. L'uccisione di Banat, come vi ricordavo prima, ha visto le proteste e manifestazioni della Ramallah a tutta la Palestina e rappresenta una delle pagine più nere di questi diciamo, quasi 30 anni dagli accordi di Oslo e di quello che in cosa si è tramutato Oslo. E quindi non ci ha sorpreso nemmeno l'atteggiamento della leadership palestinese, che mentre i sei evasi hanno scatenato il giubilo di tutta la popolazione, anche da fuori confine. Pensiamo che ieri a Washington DC i giovani, un movimento giovanile palestinese sotto l'ambasciata israeliana, sono stati buttati una serie di cucchiai proprio a sbeffeggiare l'occupazione, ed è stata, diciamo, una manifestazione di grande sensibilità. È ovvio che questo dovrebbe farci riflettere su come orientare anche il nostro sostegno politico e il nostro supporto alla causa. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم بنظافة هذا العلم Bene, ci tenevamo a darvi anche una notizia fresca in quanto è uscita oggi, o meglio forse ieri, su Al Jazeera, che riguarda appunto l'incontro tra il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. I due leader si sono incontrati per un colloquio sul conflitto israelo-palestinese, riporta l'agenzia di stampa, e sui legami bilaterali, che in quello che è il primo viaggio ufficiale di un leader israeliano in Egitto in un decennio, cioè erano 10 anni che non un primo ministro andava in Egitto a incontrare al-Sisi. Bennett, capo del partito di estrema destra Yamina, che si è insediato a giugno, quindi ha incontrato il presidente egiziano nella località del Mar Rosso di Sharm el-Sheikh, nel sud della penisola del Sinai. I colloqui sono arrivati dopo giorni di bombardamenti a bassa intensità e lancio di razzi tra Israele e Gaza, come riportavamo anche in apertura, che si innestavano appunto sulla fuga dei prigionieri e su quello e sull'assedio alla striscia. E secondo una dichiarazione della presidenza egiziana, riporta Al Jazeera, i colloqui si sono concentrati sugli sforzi dell'Egitto per mantenere la calma nei territori palestinesi occupati e sull'importanza del sostegno internazionale per la ricostruzione, sull'allentamento delle tensioni tra Israele e i gruppi armati nella striscia e, secondo alcuni analisti, potrebbe portare ad un allentamento delle restrizioni sulle enclave occupate. Ovviamente c'è da capire come si inserisca tutto ciò anche per quel che riguarda il possibile scambio di prigionieri, di cui si è parlato molto, anche se sembra non essere stato oggetto del colloquio, ma come si inserisca questo incontro anche nel variegato quadro palestinese alla luce della situazione e di questa situazione che possiamo dire fluida ma esplosiva, quindi staremo a vedere le successive evoluzioni, di cui sicuramente vi daremo notizia. Però è singolare che Bennett sia andato a trovare proprio al-Sisi, dato appunto che erano 10 anni che un leader israeliano non si recava in Egitto, il che fa pensare a dei risvolti che secondo me riguardano anche, oltre alla vicenda palestinese, anche interessi economici tra gli stati, in cui la Palestina potrebbe essere comunque l'agnello sacrificale, diciamo così. Michele, lascio la parola a te, anche perché oltre che prima ricordavamo triste anniversario di Oslo, ci tocca ricordare un altro triste anniversario che ha caratterizzato la storia palestinese, e in particolare il massacro di Sabra e Shatila, e quindi lascio la parola a te, così potrai parlarci del Libano, dato che ci sei stato, e quindi vai. Sì, Davide. Purtroppo, come dicevi, in questa settimana ricade il triste anniversario, perché tra le 6 del mattino e le 8 del mattino, tra le 6 del mattino del 16 settembre del 1982 e le 8 del mattino del 18 settembre, nel quartiere di Sabra, nel campo profughi di Shatila, entrambi posti alla periferia ovest di Beirut, furono barbaramente trucidati all'incirca 3.500 palestinesi, anche se in realtà il numero non è mai stato chiarito e probabilmente è anche più alto, che oggi per lo più giacciono nella fossa comune, dove è stato posto anche il monumento commemorativo. L'evento tristissimo della storia dell'umanità, che anche all'epoca fu condannato come un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, fu compiuto nell'ambito della guerra civile libanese, e in particolar modo fu messo in atto dalle falangi libanesi e dall'esercito del Libano del Sud, però, e questo lo ricordiamo e bisogna sottolinearlo, con la complicità e il sostegno tattico e strategico dell'esercito israeliano. E infatti, ed è questa la cosa che bisogna ricordare, anche per il rispetto di queste persone, di questi civili, che erano donne, uomini, bambini, insomma anziani, che si trovavano semplicemente all'interno delle loro case e vennero trucidati in maniera barbarica dalle falangi libanesi, mentre praticamente c'erano i razzi che venivano sparati dall'esercito israeliano per illuminare a giorno il campo. E tant'è vero che questa cosa addirittura incuriosì parecchi bambini che uscirono, proprio per vedere di che cosa si trattava. Pensavano fossero fuochi d'artificio, una festa, e fu proprio in quel momento che le falangi entrarono nel campo e iniziarono quest'opera di sterminio. All'epoca ci furono anche delle trattative, infatti all'inizio di luglio il presidente americano Ronald Reagan inviò appunto Philip Habib, affiancato da Morris Draper, che erano inviati del presidente Reagan appunto nel Medio Oriente, proprio per dipanare questo problema dei campi profughi, perché e lo ricordiamo, in quel periodo in realtà le forze sioniste avevano invaso il Libano, e quindi Proprio per questo, insomma, in seguito alla ritirata delle forze di resistenza anche palestinesi, fu consumato questo atto barbarico. E all'epoca dei fatti il primo ministro israeliano praticamente addirittura diede la sua assicurazione che i suoi soldati non sarebbero entrati a Beirut ovest e non avrebbero attaccato i palestinesi nei campi profughi. Quindi diciamo che Reagan ottenne questa assicurazione che fu un po' il modo per scaricarsi la responsabilità e gli israeliani in maniera estremamente infame in qualche modo mantennero la parola data perché lasciarono in particolar modo il lavoro sporco ai falangisti. Che soprattutto guidati da Bashir Gemal mossero all'interno del campo e operarono questa mattanza, chiaramente con lo scopo di infliggere un ulteriore colpo al popolo palestinese con il beneplacito dei sionisti, perché chiaramente all'epoca i palestinesi si trovavano ad essere profughi in Libano perché erano appunto stati cacciati dalla Palestina. Ancora oggi purtroppo i palestinesi sono profughi in Libano e non solo in Libano. E purtroppo, ecco, all'epoca dei fatti ci fu sdegno internazionale, soprattutto perché all'indomani della strage entrarono nel campo anche i primi giornalisti. Famosissimo è l'articolo di Robert Frisk che scrisse questo articolo per il New York Times dal titolo Ce lo dissero le mosche. Proprio perché lui e questi giornalisti che entrarono nel campo furono impressionati dalla quantità di mosche e lì capirono che era successo qualcosa di terribile, anche perché purtroppo si sentiva il puzzo nauseante della morte, perché appunto questi corpi furono sfregiati, martoriati e lasciati lì per strada nei campi. Proprio perché nel giro di queste poche ore fu operato questo massacro, ci fu addirittura il problema di dover seppellire i morti, anche per questioni sanitarie. E tant'è vero che appunto vennero frettolosamente sepolti in questa fossa comune, dove ogni anno, proprio per commemorare questo eccidio, c'è questa manifestazione molto sentita non soltanto tra i palestinesi, e proprio in questi giorni cadrà questo anniversario che comunque Davide, a me e a te, insomma, ci crea non poca emozione. Potrei dilungarmi oltre sulle condanne internazionali che arrivarono all'epoca, però in realtà purtroppo Ariel Sharon non è mai stato inquisito né condannato per i fatti. All'epoca era ministro della difesa. I vari falangisti, per la maggior parte, fuggirono all'estero dal Libano in seguito alla fine della guerra civile. In pochi sono stati assicurati alla giustizia. Qualcun altro, addirittura, tramite accordi, è riuscito ad avere un lasciapassare in Libano, quindi addirittura tornato in patria, e chiaramente questo crea ancora più sdegno e va a riaprire quella che è rimasta una ferita aperta, perché ancora oggi nei campi ci sono, forse non c'è nessuna famiglia che all'epoca non perse nessuno, e la maggior parte delle famiglie furono decimate. Tant'è vero che all'epoca dei fatti, addirittura queste erano alcune delle testimonianze anche di Davide. Se vuoi intervenire, visto che immagino che pure tu magari avrai qualche considerazione, siccome ho avuto il piacere e l'onore anche di conoscere una delle prime soccorritrici, dei pochi superstiti che rimasero nel campo, lei addirittura ci raccontava che una delle difficoltà fu anche quella proprio materialmente di entrare nel campo, perché questi corpi erano accatastati gli uni sugli altri, e quindi ecco, insomma, pure tra i soccorritori ci fu un attimo di sgomento, che poi ovviamente fu solo un momento, perché dovettero rimboccarsi le maniche per cercare di prestare assistenza appunto ai sopravvissuti. Sì, Michele, ovviamente il ricordo della tragedia di Shatila, soprattutto dopo essere stato per un paio d'anni nei campi con la delegazione, appunto, per non dimenticare sempre Shatila, ci riporta sempre alla mente emozioni particolari. Ci tenevo anche a ricordare comunque che purtroppo, proprio per ricordare anniversari brutti, ma è doveroso ricordare che comunque anche l'8 settembre era l'anniversario anche della scomparsa del buon Maurizio Musolino, che è stato uno degli animatori del comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, senza dimenticare ovviamente Stefano Chiarini, che è stato all'epoca giornalista del Manifesto, che è stato colui che comunque ha dato finalmente una dignità anche per quel che riguarda, visto che dove oggi si svolge la commemorazione, o meglio dove si svolgeva fino a 2 anni fa, prima del Covid, prima del collasso economico del Libano, e che quindi ci rendono impossibile la nostra partecipazione lì. Dicevo comunque del luogo dove avviene la commemorazione, prima quella era un deposito dell'immondizia, fu grazie a Stefano che comunque il ricordo di Sabra e Shatila non è andato disperso, infatti Stefano Chiarini e Maurizio rimangono nella memoria non solo nostra ma dei tanti palestinesi, come abbiamo avuto modo di vedere da vicino. E come non dimenticare i disegni dei ragazzi, quello che mi colpivano maggiormente erano questi disegni dei ragazzi, questi disegni che appunto descrivevano la morte e il senso della vita nel campo. Ariel Sharon non ha pagato nulla, come tu per ricordare, anzi è diventato presidente dello Stato, l'unica cosa che possiamo ricordare era che uno dei pochi che invece prese posizione come Tro Sharon, proprio per sottolineare come sono cambiati i tempi, fu l'allora presidente Pertini. Infatti molti si domandano perché anche agli europei molti palestinesi erano contenti per la vittoria dell'Italia, perché appunto ricordavano il fatto che nell'82, quando l'Italia vinse i mondiali, Pertini consegnò la Coppa del Mondo all'allora presidente dell'ORP Yasser Arafat, proprio per sottolineare come cambi anche il lessico, la storia e anche determinati punti di vista rispetto alla causa palestinese, se ascoltiamo oggi personaggi politici di rilievo del governo italiano, per non parlare del nostro ministro degli esteri Gigino Di Maio, non possiamo che sentire una terminologia prettamente filo israeliana, oltre che una partecipazione anche solidale alle iniziative di Israele, come abbiamo visto durante quelle iniziative organizzate a Roma dall'ambasciata ebraica, mentre veniva bombardata la striscia di Gaza. E quindi non vorrei dilungarmi oltre, anche perché comunque ricordare Shatila non è mai facile, ma soprattutto quello che è importante non sottacere è la difficile situazione del Libano oggi e l'importanza di tenere gli occhi aperti, anche perché gli equilibri del Libano significano aprire ulteriori fronti e la situazione è, possiamo dire, abbastanza drammatica per le informazioni che ci arrivano da Beirut e nei dintorni. Quindi anche lì la situazione è in continua evoluzione, il prezzo del carburante è arrivato alle stelle, le persone non arrivano a mettere il piatto in tavola e quindi non gli equilibri interni sembrano stanno per crollare. Ovviamente speriamo che qui non sia una nuova occasione per provvedere ad fomentare un conflitto interetnico con la scusa, ad esempio, di colpire Hezbollah. Sì, Davide, siamo arrivati in chiusura di trasmissione, insomma, ormai siamo arrivati alla fine, quindi vi salutiamo con questa canzone Flowers of Philistine. Buona serata. Arrivederci a tutte e tutti. Sto cercando di trovare le parole. Ho bisogno di parole, parole convincenti, parole penetranti che ti fanno un buco in testa e che poi lasciano frammenti in ogni dove. Schizzi di miseria, chiazze di paura, brandelli di sogni, resti di cultura. Parole come raffiche di mitra in un mercato, come missili sparati al terzo piano di un palazzo, che facciano male, cazzo. Parole tanto forti da zittire tutto il mondo occidentale, solo per un attimo, soltanto per provare ad ascoltare l'impotenza e il rancore. Parole a fare male, picchiate sulla faccia come calci di fucile, pugni e sputi e schiaffi, parole, parole a ricordare, per non dimenticare che lo Stato di Israele si è insediato in Palestina con la guerra, 35 anni fa, e che non se ne va nì, e la grande Israele già si chiama Filastin, e 200.000 loro non tenevano diritto e si insediava. Ma quale equidistanza qui? Parole partigiane a fare agguati a carri armati che rincorrono ambulanze, parole per cercare di fermare la mattanza, coscienti che farebbero più effetto un po' di missili anticarro e che in sostanza parliamo per parlare mentre in Filastin si lotta e muore coltivando la speranza di veder nascere un fiore. Massacrate senza ragione agli israeliani in dei territori, hanno abbattuto 600 palazzi e deportato 2000 persone in 15 anni che le loro la chiamano guerra contro terrore o la dalla. Si chiama intifada e sta per rivolta la popolazione contro terrorismo Israele, contro i soldati, contro le colonie, cacchio e 30 anni migliaia di agenti impedendo la libera circolazione. A roba che l'hanno rubata terra, voglia campao, lavoro e l'amore, allora. Ha paura in Israele, noi forza una capimma, perché non siamo scema, contestualizzammi una cosa, capimma, capimma che non mi trattate 30 anni come un animale, diventa una bestia, affamata, impaurita e pertanto feroce, chi ne cazzimma è normale, è naturale, chi ha bestia è feroce, chi ha bestia o padrona, bestia più bestia è sempre padrona, bestia è l'impero che fa dottrina, a morte la bestia, viva Palestina! Ardi Huna, Yadi Wanahuda, Ila Hardi, Ila Filastin.